2, la via del teatro. Quando la sigla dura qualche secondo in più è perché me ne sto approfittando e realizzare tempi tecnici di collegamento in regia per la presentazione, anticipando quello che sarà Crisalide Forlì Festival Arti Performative e Filosofia, il collegamento tecnico e con il direttore artistico Lorenzo Bazzocchi, al quale do il buongiorno. Buongiorno Lorenzo, bentornato. Buongiorno. Allora, anticipiamo l'incontro dal 25 agosto, anzi gli incontri estesi fino al 19 novembre 2023, e poi aggiungo anche 30ª edizione, quindi pluridecennale presenza per questa pluralità del sensibile che è la parola d'ordine di questa 30ª edizione. Intanto dico buon compleanno, perché 30 anni insomma è una bella età matura, ma nonostante tutto la presenza continua portando qualità, curiosità e crescita. Com'è cresciuto Crisalide in questi 30 anni, Lorenzo? Diciamo che Crisalide vede la sua prima edizione nel 94 e diciamo che più di una crescita si potrebbe parlare di una conferma di tutta una serie di tensioni che avevano animato questa nascita. Il festival effettivamente sin dalle prime edizioni ha sempre cercato di superare il concetto di vetrina e per tentare di creare quelli che noi chiamiamo spazi di esperienza, spazi di pensiero, la possibilità che ci potesse essere un confronto tra gli artisti all'interno, tra gli artisti e oltre questo anche tra gli artisti e studiosi che venivano invitati, diciamo provenienti anche da delle discipline più diverse, dalla matematica alla fisica, come dalla filosofia. E questo diciamo insieme di interlocuzioni ha permesso anche poi di definire meglio, diciamo, quelle che erano le aspettative del festival, cioè sempre teso a presentare certamente delle opere sia di teatro che di danza, ma anche proprio cercare di centrare questo tentativo di mettere in comune delle visioni di mondo e persone che ragionano sulle cose del mondo in un certo modo. Chi sono i protagonisti per questa 30ª edizione, dove le parole d'ordine sono pluralità del sensibile? Chi vedremo? Sì, diciamo che anticipo rapidamente il tema titolo del festival. Per Crisalide non è mai stato uno strumento di decisione nel senso di selezione degli artisti, quanto noi diciamo che pluralità del sensibile, come altre tematiche degli anni scorsi, hanno in qualche modo definito una sorta di recinto, cioè si studia, si cercano dei riferimenti sia nella letteratura teatrale che nella letteratura filosofica e ci si prepara, noi diciamo, per meglio accogliere gli ospiti. Quindi nel nostro caso quest'anno pluralità del sensibile si riallaccia a tutta una serie di questioni che vengono poste da un filosofo francese che è Jacques Rancière, che definisce questa fabbrica del sensibile come una sorta di a cui noi vogliamo aderire, come una sorta di luogo all'interno del quale si possa definire un habitat, diciamo, se si può dire così, un habitat comune attraverso anche proprio un intreccio di pluralità di attività umane. Comunque la tensione è sia nell'evidenziare più sensibili, ma anche proprio cercare di capire come le pratiche artistiche possono superare una sorta di confinamento all'interno del quale sono relegate per andare verso quello che è il mondo del lavoro. Questo qui è un poco, diciamo, quello che anima. Sì. Per l'altra cosa da notare è che il festival quest'anno si struttura su due piani temporali, uno estivo 25, 26, 27 agosto, l'altro dal 20 ottobre, quindi autunnale, dal 20 ottobre al 19 novembre. mi soffermo un po' più precisamente sulla parte estiva, che è quella più a noi vicina, e diciamo siamo in una zona vicino Meldola, prossima al fiume Bidente, non molto distante purtroppo diciamo dalle esondazioni recenti, sì. In una casa di campagna, noi lo chiamiamo luogo agreste, quindi per tutte le performance si svolgeranno all'aperto e alla luce del sole. Abbiamo diversi ospiti, danzatori noti anche diciamo della nostra regione, gruppo Nanù di Ravenna, ci sarà Stefania Tansini che è recente premiata Premio UBU come miglior giovane artista under 35, una bravissima coreografa e danzatrice che recentemente ha collaborato anche con Motus. Abbiamo Carlo Massari della CNC Company con tre suoi interventi, quindi una metamorfosi da Blatta fino a Sapiens. Sì, quindi, e nella crisalide ci sta, per cui questo aspetto, sì, di trasformazione. Più di 30 ospiti, 11 giorni di programmazione spalmati in 3 mesi, divisi come tu hai detto in 2 parti, e quello che è una località che nel cuor mi sta, che è Meldola, prima di salire per la Val Bidente fino ad arrivare a Santa Sofia, sono tutti luoghi molto particolari, anche se sofferenti per quello che recentemente è capitato. Valore aggiunto e merito per Crisalide dare attenzione anche a questi aspetti, per appunto una pluralità del sensibile. Puoi restare in frequenza che metto un po' di musica, poi rientriamo, sì, e continuiamo a parlare di questa rassegna tra arti performative e filosofia. A tra poco, grazie Lorenzo. A tra poco, grazie a voi. che seguiamo da quando è partito il Breakfast Club è più, diciamo, attempato, giustamente, Crisalide, Forlì, Festival, Arti Performative, Filosofia, Musica, Danza, Luoghi, Non Luoghi, Conoscenza del Territorio, Motivi di Dialogo con una pluralità del sensibile che portano argomenti apparentemente non vicinissimi ad essere assolutamente sovrapponibili ed adiacenti. Siamo con Lorenzo Bazzocchi, direttore artistico, tra l'altro la rassegna, aggiungo, è curata da Mask Teatro. Lorenzo, ci sei? Ti sei abbandonato alla musica dei Blue State per un attimo? Abbiamo ascoltato questo brano Your Girl da Blue State per Memphis Industry e procediamo, prima di congedarci, parlando anche delle collaborazioni per questa 30ª edizione. Chi è vicino a Crisalide, Lorenzo? Ma, cioè, diciamo, vicino a Crisalide ci sono le figure storiche che l'hanno seguito per molti anni. Parlo di Eleonora Sedioli, che si occupa, diciamo, della sezione danza e da 3 anni collabora con noi Sara Baranzoni, che è una studiosa di arti performative. Nello specifico si occupa, diciamo, del rapporto tra arti performative e filosofia. Collabora strettamente Sara Baranzoni con Paolo Vignola. In effetti questa è da sottolineare. Il festival è caratterizzato da 5 anni da questo progetto che si chiama Fuori Logos, appunto curato da Sara Baranzoni e Paolo Vignola, un progetto di interazioni filosofiche sul presente, quindi c'è una tensione a ragionare sulle questioni del presente. Di quest'anno, dopo aver affrontato negli anni scorsi, diciamo, problematiche relative all'estrattivismo, quest'anno Fuori Logos si occuperà anche di antispecismo, quindi la questione è interessante, sì. E queste sono, cioè, sia Leonora Sedioli che Sara Baranzoni costituiscono, assieme al sottoscritto Lorenzo Bazzocchi, la direzione artistica. La parte tecnica curata da Angelo Generali, che è un ottimo illuminotecnico, e per uscire, diciamo, proprio dallo staff, vorrei sottolineare una collaborazione con l'altro festival della città, che è Ipercorpo, e quindi della compagnia Città di Ebla, a cui tengo a sottolineare l'importanza di queste relazioni all'interno della stessa città. E per finire la relazione decennale con Area Sismica, quindi il famoso club musicale che si trova sulle colline forlivesi. Sì, che proprio mi pare a Meldola, fra l'altro, anche noi, sì, per quanto riguarda, sì, altri, sì, suoni, siamo in dialogo con Area Sismica, per cui interessanti anche le intersezioni nel collaborare per costruire questa 30ª edizione, prima parte dal 25 al 27 agosto, che ovviamente, essendo più imminente, abbiamo portato ai riflettori di Radio Città Fujiko. Avremo modo di sentirci per i percorsi di Crisalide. Io per adesso ringrazio tantissimo il co-direttore artistico Lorenzo Bazzocchi e magari ci sentiamo poi dopo agosto per ribadire gli incontri della seconda parte. Ok? Molto volentieri. Grazie a voi. Grazie. Buon lavoro. Buon lavoro a te. Buona giornata. Ciao Lorenzo. Buona giornata. Ciao ciao. Encoraçado, pato quentinho, sabe se vem do Pará. Ave metálica, o tucupi, sabe se tem no hangar. Zen, rango que tem cheiro de flor. Jasmim, louvado seja o tempero. Panuelo, panuelo, só se for em varadeiro. Panuelo, panuelo, saxifone varadero. Pannuelo, pannuelo, saxifone varadero. Pannuelo, pannuelo, saxifone varadero. Contrabbassista John Patitucci, Varadero, il brano che ha portato a conclusione l'intervista, ha portato lo stacco quasi al termine della prima parte con Crisalide Forlì Festival, Ipercorpo, Crisalide, Ravenna, Forlì, la realtà di area sismica per la musica, per altri suoni, Meldola. Ecco, nella vicina Romagna questi movimenti sono assolutamente molto fertili, anche di ricerca, come ho detto, per non solo incuriosire ma sensibilizzare un pubblico attento. Assemblare la danza, l'espressione corporea con motivi filosofici, con una sensibilità, come ho già detto più volte, probabilmente la sensibilità è la parola d'ordine, oltre che le diverse sensibilità all'interno di Crisalide e non solo, un festival che dal 25 agosto l'abbiamo anticipato, poi di rientro avremo anche magari nella rubrica in scena le parti più vicine all'autunno, ma per l'autunno c'è tempo, quindi ascoltiamo Kruder Dorfmeister da KD Session, questo disco, un concept album manifesto per la musica da un tempo, K7 Record, dei due scienziati austriaci, a proposito di intersezioni con la filosofia e in questo caso con la musica dub da un tempo. Lo portiamo fino alla pubblicità, ovviamente, per consultare il programma di scusate, Crisalide Forlì Festival. Ci sono piattaforme social, il sito e quant'altro. Nuovamente, anche per questa 30ª edizione, protagonista in conclusione della rubrica in scena, grazie a Lorenzo Bazzocchi, co-direttore artistico. Noi portiamo un po' di musica fino alla pubblicità e poi si rientra con Entro Terra Festival. A tra poco, buon ascolto.